in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa che oggi è dei settimanali. Abbiamo trovato questa variante agostana di fare appunto un giorno alla settimana, dedicarlo ai settimanali anziché ai quotidiani, anche perché forse si ha più tempo in estate, quindi più tempo per leggere articoli più lunghi. Cominciamo da internazionale in edicola da ieri, dopo due settimane, come vi avevo detto, ma come probabilmente sapete, nel periodo estivo, in quello natalizio, Internazionale ha un doppio numero dedicato solo alle storie in generale di viaggio. Ora questo numero nuovo è invece il classico Internazionale, quindi poi venerdì ne avremo un altro. Questo in edicola da ieri, la copertina si intitola Cosa pensano i robot, e l'immagine è proprio una di questi robot di ultima generazione, quelli che sono in grado, secondo i loro creatori, io personalmente non li ho visti all'opera, di fare le pulizie in casa, di giocare a calcio, c'è persino un campionato di calcio per robot. Il sommario dell'articolo è l'intelligenza artificiale sta per cambiare il mondo e potrebbe essere lei a decidere come. Come sapete, Internazionale, oltre a parte alcune rubriche, traduce di fatto in modo eccelso articoli apparsi su altri giornali non italiani. Questo articolo è tratto dall'Economist, scusate. La prima parte, come sempre, è dedicata a quelle che la squadra di Internazionale ritiene le foto più belle della settimana precedente, e non poteva mancarne una di Simone Biles. Io credo che tutti voi l'abbiate vista, questa incredibile ginnasta americana. È alta 1,45 m, sembra avere delle molle nelle gambe, ha vinto ori e anche un argento, ma per un piccolo errore, e in questa foto c'è uno sfondo verde, il colore un po' dominante nei cartelloni delle Olimpiadi che si concludono domani, e lei sospesa per aria, perché io trovo veramente che sia una specie di fusione tra una pantera, perché fa dei salti proprio felini, e forse una farfalla, perché comunque c'è una leggerezza in questo suo muscolosissimo corpo che è spettacolare, ipnotizzante per come l'ho vista io. Interessante, perché purtroppo è una di quelle questioni di cui si parla molto raramente. Uno dei due editoriali, che è tradotto dal New York Times e che riguarda lo Yemen è stato anche al centro della cronaca nella scorsa settimana, perché è stato colpito un ospedale di Medici Senza Frontiere. In realtà il problema è che in Yemen c'è una vera e propria guerra civile di cui pochissimo si parla. E allora l'editoriale del New York Times si intitola Le colpe di Obama nello Yemen, e sapete che Obama è sul finire del suo secondo mandato e negli Stati Uniti non si può farne un terzo, quindi mancano pochi mesi alla fine, diciamo, dell'era Obama. Però molti gli riconoscono tanti meriti, tra i quali la distensione dei rapporti con Cuba, quelli con l'Iran. Per alcuni invece questo non è un merito, ma in ogni caso, per restare alla politica estera, tanti altri dicono che in politica estera ha fatto molte scelte sbagliate. Per esempio, scrive New York Times, un ospedale legato a Medici Senza Frontiere, una scuola, una fabbrica di patatine. Secondo il diritto internazionale, nessuno di questi è un obiettivo militare legittimo. Eppure sono stati tutti bombardati negli ultimi giorni dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen, uccidendo più di 40 civili. Gli Stati Uniti sono complici del massacro. Hanno aiutato la coalizione in molti modi, per esempio vendendo armi ai sauditi per rabbonirli dopo l'accordo sul nucleare iraniano. Il Congresso statunitense dovrebbe sospendere la vendita di armi, e il presidente Barack Obama dovrebbe dire ai sauditi che gli Stati Uniti ritireranno il loro sostegno se loro non smetteranno di colpire i civili e non riprenderanno le trattative di pace. Sempre da Internazionale, sempre per restare su crisi reali, concrete, gravissime, ma di cui si parla poco, a pagina 32 trovate un reportage di un magazine colombiano, Semagna, che parla della Venezuela. L'ombra dell'esercito sul Venezuela alla deriva. La situazione economica nel paese è sempre più complicata. Il presidente Maduro si appoggia ai militari per restare al potere, ma potrebbe essere una scelta rischiosa. Quindi un po' un aggiornamento che appunto è più difficile trovare sui giornali italiani. E sempre da Internazionale, per un po' tutti i settimanali hanno in questi giorni degli speciali dedicati al viaggio. Ecco, a partire dalla pagina 72, un articolo di Noël van Bemmel del quotidiano olandese De Volkskrant, che si intitola Il segreto sloveno, e ci guida, perché l'ha fatto lui il viaggio, ha avuto questo privilegio, sulle Alpi Giulie. Ci sono pochi turisti e tante cose da scoprire. Un'ultimissima segnalazione dall'oroscopo di Rob Bredzny. Io non sono una particolare fan degli oroscopi, o meglio, purtroppo non li leggo perché mi faccio sempre delle grandi illusioni, quindi ho deciso di non leggerli. Quello di Rob Bredzny, però, su Internazionale, oltre ad avere gli oroscopi sempre molto originali per tutti i segni, ha anche una piccola rubrichetta che si chiama Compiti per tutti, quindi vale per tutti i segni zodiacali, e ve la leggo. In quale situazione è più difficile per te mostrare affetto? Nelle prossime settimane allenati per padroneggiare la compassione proprio in quelle situazioni. A proposito di questioni internazionali e di settimanali, anche l'Economist ha fatto la sua pausa estiva, ma questa settimana, da ieri, è in edicola con un nuovo numero, la copertina dedicata all'Africa e il titolo Africa's Fragile Democracies, le fragili democrazie africane, con un approfondimento appunto su come il continente africano, che è fatto da tantissimi paesi con storie e situazioni politiche molto diverse tra loro, sia appunto in una fase molto di transizione, perché anche là dove sulla carta si tratta di democrazie, poi in realtà si fatica ancora a vedere le stesse caratteristiche che abbiamo nelle democrazie occidentali. Vi confesso che quando compro l'Economist la prima cosa che faccio è andare a vedere se si occupano di noi, perché poi quasi sempre non è in modo lusinghiero. Questa settimana c'è un articolo sul calcio scommesse e sugli ultimi arresti, e l'Economist dice: l'Italia non è sicuramente l'unico paese dove c'è il problema delle scommesse clandestine. Quello che preoccupa di quest'ultima inchiesta è questi legami che sono stati scoperti tra le scommesse clandestine, ma anche in teoria legali, e la criminalità organizzata, in particolare la mafia e l'andrangheta. L'Economist ha anche il suo annuale sondaggio sulle città al mondo dove è più bello vivere, e vabbè, al primo posto c'è, come l'anno scorso, l'Australia. Tra l'altro l'Australia è anche al sesto e al settimo posto con Adelaide e Perth, mentre al primo posto c'è Melbourne. Secondo posto Vienna, e poi c'è Vancouver e Toronto e Calgary, quindi tre città canadesi di fila, e agli ultimi tre posti Auckland, Nuova Zelanda, Helsinki, Finlandia, e Amburgo in Germania. Le cinque invece città dove è peggio vivere sono la capitale dell'Ucraina, Kiev, quella del Camerun, Douala, Harare, la capitale dello Zimbabwe, Karachi, la capitale del Pakistan, e Algiers, la capitale dell'Algeria, Algeri. E invece un'ultimissima cosa, anche perché si lega poi a un altro pezzo che volevo segnalarvi: quelle che nell'ultimo anno, quindi rispetto all'ultimo, anzi negli ultimi 5 anni di questo sondaggio fatto dall'Economist, la città che ha fatto più progressi in assoluto come vivibilità è Teheran in Iran. Al secondo posto c'è Dubai, e mentre quelle che hanno fatto più passi indietro, e non sorprende minimamente, sono Damasco e Kiev in Ucraina, che guarda caso sono teatri di guerra. E al terzo posto però c'è Detroit, perché Detroit è una delle città americane con potenzialmente la più alta possibilità di tensioni razziali, come del resto abbiamo visto in queste passate settimane. E siccome vi ho parlato di Teheran come la città che ha fatto più progressi secondo l'Economist da 5 anni a questa parte come vivibilità, vi segnalo il numero di Marie Claire di settembre, che è in edicola, e sapete che i numeri dei mensili femminili di settembre sono sempre più corposi, perché sono il ritorno, quando hanno molta pubblicità per farci venire voglia di comprare qualcosa di nuovo. Questa è la loro idea, poi non so se funzioni. Come tutti i magazine di moda, tanto spazio, argomenti leggeri, moda compresa, ma anche tanti approfondimenti. In questo caso vi segnalo proprio un articolo che si intitola Rinascimento Iran, dall'embargo, quello che, di cui parlavamo, che Obama ha tolto dopo tanti anni, alle start-up. C'è grande fermento culturale a Teheran, anche perché l'intero paese è un paese con una età media molto bassa e un'istruzione molto alta, quindi diciamo che tolti alcuni vincoli, tolta un po' la cappa in cui era avvolto il paese, la capitale, si stanno liberando tantissime energie. Restiamo sui settimanali e torniamo all'estero, così per avere sempre un po' uno sguardo anche su di noi, ma dall'esterno. La copertina di Time di questa settimana ha nell'angolino in basso a destra un animaletto che sembra un po' un troll, che con due dita molto lunghe e unghie altrettanto lunghe che si diletta a battere su quello che potrebbe essere un mini computer o un tablet. Il titolo è Why We're Losing the Internet to the Culture of Hate, perché stiamo abbandonando internet alla cultura dell'odio. E naturalmente il tema è quello dei cosiddetti haters, appunto, che sono stati battezzati così proprio tutti quegli utenti di internet e in particolare dei social network come Facebook, Twitter, Instagram e tanti altri che hanno delle reazioni verbalmente molto violente sui temi più disparati. Ed è sta cominciando a diventare un problema che è anche legato poi a anche un altro aspetto particolare che è il cyberbullismo. Il venerdì di Repubblica, quello di questa settimana, cioè in edicola da ieri, invece si dedica alla Mostra del Cinema di Venezia che si aprirà il 31 di agosto. E l'articolo che ne ripercorre un po' la storia più recente è di Natalia Aspesi, che adesso è una storica giornalista della Repubblica, adesso ha più di 70 anni, però si è occupata di tantissime cose, moda compresa, moda e costume, ma anche di cinema. E quindi qui racconta le memorie di un'inviata in laguna, incontri fatali, corna lampo, capolavori e film tremendissimi. Poliziotti in assetto di guerra, belle signore davanti a una porta d'hotel, divi e politici. La Mostra del Cinema di Venezia raccontata da chi la conosce bene. E l'articolo poi lo trovate a partire da pagina 14. La copertina di 7, invece, il magazine settimanale del Corriere della Sera, ha una grande foto di Marco Giallini, l'attore che interpreterà un personaggio, il commissario Schiavone, che è il personaggio principale ricorrente dei libri di Antonio Manzini. Tra l'altro, chi segue, siete in tanti, il cacciatore di libri qui di Alessandra Tedesco, anche lei ha parlato proprio con l'autore di questi libri, di questa trasposizione, di questa imminente trasposizione televisiva del commissario Schiavone, che non è proprio un Montalbano, però insomma ha dei tratti comuni da sciupa femmine, forse un po' più sarcastico di Montalbano. Quest'autunno farò le scarpe a Montalbano, infatti il titolo di questa intervista che poi trovate all'interno. Panorama, per la terza settimana di seguito da quando ho occasione di segnalarlo, ha in copertina una donna mezza nuda. E tra l'altro qui veramente non se ne capisce il motivo, perché 2 settimane fa era perché la copertina era dedicata ai tatuaggi. E vabbè, questa settimana la copertina è dedicata alla realtà virtuale, però in copertina c'è una donna molto dotata, diciamo, con un bikini che copre un terzo di quello che dovrebbe coprire, e poi ha questa maschera che è un po' il simbolo di questi nuovi di questa wearable technology che, per esempio, permette appunto di scoprire cos'è la realtà virtuale. L'inchiesta poi, l'articolo poi è molto interessante, lo trovate all'interno: scuola, notizie, turismo, medicina, cinema, porno e tanto altro. Una nuova era è già iniziata, quella appunto in cui si fa uso della realtà virtuale e cambierà le nostre vite in meglio. Ah, ecco, apprendo qui nell'angolino in fondo a sinistra che questa ragazza mezza nuda è la modella Barbara Francesca Ovieni che indossa un visore per la realtà virtuale e vi assicuro poco altro. Il New York Times Magazine, che è il settimanale allegato al New York Times, ve lo segnalo perché l'ultimo numero è interamente dedicato, grazie a un accordo di syndication, cioè quando i giornali mettono in comune alcuni articoli o servizi speciali, al reportage che poi era anche su Repubblica di domenica scorsa, Terre Spezzate. È un reportage fotografico con le fotografie di un fotografo italiano, Paolo Pellegrin, i testi di Scott Anderson, un giornalista americano, che cerca di capire come un decennio di guerre in vari paesi abbia profondamente modificato il mondo arabo, quello che viene definito quindi questo reportage Fractured Lands, tradotto da Repubblica appunto Terre Spezzate, un viaggio straordinario per capire il grande caos del mondo arabo. Ci fermiamo però un attimo per le informazioni sul traffico e ci ritroviamo per una seconda parte dedicata ai settimanali. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Stavamo dando un'occhiata ai settimanali o comunque ai magazine di questi giorni e come ho fatto settimana scorsa vi segnalo Vanity Fair, l'edizione italiana che come sapete è settimanale mentre la sorella maggiore americana è un mensile. In copertina c'è Justin Timberlake che racconta tutta la sua storia. Justin Timberlake è un ex bambino prodigio che poi è diventato oltre che cantante, ballerino, anche attore. Ma dal numero di Vanity Vanity Fair, l'intervista naturalmente era di Simona Siri, la trovate all'interno. Vi segnalo l'articolo di Daria Bignardi, che da sempre ha una rubrica su Vanity Fair, o comunque da molto tempo, che si chiama Rubrica Barbarica, che riprende il titolo della trasmissione che per tanti anni ha condotto prima sulla Rai, poi sulla 7, Le invasioni barbariche, che torna su quella brutta, secondo me, vicenda di cui abbiamo parlato anche perché sui giornali c'era molto spazio, delle atlete dell'arco che sono state definite cicciottelle perché hanno sì certo un fisico diverso da quello di Simone Biles o di una nuotatrice. E il titolo della rubrica di Daria Bignardi, che secondo me è molto significativo, è Parla come tratti le donne, e riprende soprattutto un articolo scritto dal Guardian, e che tra le molte cose che dice è infatti un virgolettato, dice: il modo in cui parliamo delle donne, in particolare delle donne al top dei loro settori, ha un impatto tangibile sul modo in cui trattiamo le donne, scrive il Guardian, e Daria Bignardi dice: io penso che abbia ragione. E poi sempre da Vanity Fair un'altra bella intervista a un'altra donna, una soprano molto famosa, solo 33 anni ma già raggiunto dei traguardi importantissimi, Eleonora Buratto, che il 12 ottobre sarà a Mantova, dove è nata, per l'unico concerto che terrà in Italia nel 2016, e racconta qui la passione per la musica, ma non soltanto. Naturalmente è una ragazza di 33 anni, quindi ne ha tante di passioni. Qui invece c'è un po' una mia passione, da qui la segnalazione, e il Focus, la rivista Focus speciale di agosto, ha in copertina l'Egitto, i tesori ritrovati, gli enigmi e le grandi congiure, Egitto e i misteri dei faraoni, e a partire da pagina 31 ci sono tantissimi articoli. Il primo, molto interessante, è quello di una coppia di potere di altri tempi, che era quella formata dal faraone Akhenaton e da Nefertiti. E regnarono insieme nel segno del sole, ma non è tutto oro quello che luccica. Chi teneva davvero le redini del potere? Forse lei, la regina dei misteri. E come sempre, tante cose, e qui stiamo parlando di 1300 anni avanti Cristo, tante cose forse non sono poi così cambiate nei millenni, come per esempio appunto le dinamiche in una coppia sposata in particolare, ma non solo naturalmente. L'Espresso, che sapete che da due settimane non è più in edicola il venerdì, ma la domenica, quindi il numero che ho qui io è quello di domenica scorsa, domani troverete quello nuovo, è il terzo numero firmato dal direttore Tommaso Cerno, che aveva collaborato con l'Espresso, poi per due anni è andato al Messaggero Veneto, un quotidiano locale del gruppo L'Espresso, Repubblica L'Espresso, e ora è tornato all'Espresso. La copertina è una sorta di pianeta come se fosse visto dalla Terra, però il pianeta, oltre ad avere chiaramente i confini dei vari continenti, tra i confini dei vari continenti spunta la faccia di Renzi, e il titolo è Il mondo di Renzi, guerre, terrorismo, economia, quanto contiamo davvero. E poi questo articolo lo trovate all'interno, ma vi segnalo un'inchiesta sull'ENI. L'ENI è la più grande azienda energetica italiana ed è anche una delle più grandi al mondo. Siccome, come abbiamo visto anche questa settimana, il tema delle materie prime e in particolare del petrolio è importantissimo sullo scacchiere geopolitico, oltre che economico e finanziario, è interessante appunto questo racconto che ci fa Giuseppe Oddo dell'ENI. L'ENI alla campagna d'Africa, le nuove mire del colosso energetico così potente da essere chiamato altra Farnesina, cioè Farnesina identificata con il Ministero degli Esteri, per capire appunto quanto, che ruolo importante possa avere un colosso energetico nello scacchiere internazionale, anche nei rapporti del paese in cui è basato. In questo caso l'ENI è un'azienda italiana ancora in parte pubblica, e invece i paesi dove opera. Poi un'inchiesta di Filippo Bologna su Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo, ma anche quella in questo momento forse più in crisi. La storica giostra equestre, si parte dal Palio che c'è stato e che tra l'altro ce ne sarà un altro, del Palio di Siena, la storica giostra equestre nell'estate più calda del caso MPS, narrata per l'Espresso da uno scrittore, Filippo Bologna, che svela lo stallo di un paese intero. E qui vi segnalo in particolare, ci sono come... Questo è poi un approfondimento a cura di Luca Piana all'interno della stessa inchiesta, che si intitola Sul luogo del delitto, e cerca di spiegare, di ricordare, o di spiegare a chi non ha seguito bene la vicenda, o di ricordare magari a chi si è perso dei pezzi, il ruolo di alcuni personaggi importanti nel disastro Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Mussari, naturalmente, che è stato il numero uno della banca dal 2006 al 2012 ed è stato per un periodo addirittura presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Massimo D'Alema, Antonio Fazio, che è stato governatore della Banca d'Italia, Francesco Gaetano Caltagirone, Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, Mario Monti, ex il suo ultimo incarico, è senatore, ma il suo ultimo incarico, lo ricordate tutti, è stato quello di Premier, e poi Ignazio Visco, che è oggi il governatore della Banca d'Italia. Vi leggo in particolare quello che c'è scritto su D'Alema, perché questo esponente della prima PC, poi DS, poi PDS, poi DS e ora del PD, anche se della famosa minoranza Dem, quindi quella che contrasta Renzi in tutti i modi possibili, irrassegnabile, potremmo dire così, a farsi da parte, e è, secondo queste schede di Luca Piana, lui è uno dei protagonisti di un libro che racconta 20 anni di retroscena sul Monte dei Paschi. Lo ha scritto l'ex sindaco della città toscana Pierluigi Piccini e si intitola Siena, MPS, la politica, i poteri forti, i personaggi. Sono ricostruiti nei dettagli gli incontri nei quali D'Alema nel 1999 tenta di convincere Piccini a favorire una fusione del Monte dei Paschi con BNL, un'operazione che avrebbe messo la nuova banca, e qui c'è un virgolettato tratto dal libro, nelle mani del segretario del maggior partito della sinistra. Per questo, racconta Piccini, i non diessini dell'Ulivo erano contrari. L'Ulivo era quella grande coalizione in cui stavano tutti, no? Anche Rifondazione Comunista. Erano contrari, come lo era lui, che preferiva aggregare le altre banche del centro Italia. Nel 2001, finito l'incarico, Piccini era in pole per diventare presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, perché c'è stata una riforma recente, ma ancora adesso in Italia le banche sono controllate dalle fondazioni bancarie. Viene silurato da un decreto ad hoc che apre la strada a Mussari, e poi sappiamo quali disastri ha fatto Mussari. A proposito di domenica, cioè di quello che troverete in edicola domani, però vi segnalo una cosa che invece era, che non sono riuscita a segnalarvi per ovvie ragioni, sabato scorso, un articolo che è uscito sulla Domenica del Sole 24 Ore di domenica scorsa, ed è dedicato a questo posto dove io spero di andare prima o poi, la prima volta che mi capiterà, magari non sarà tanto presto, ma la prima volta che succederà, questo negozio di New York, che vende soltanto matite. E l'ha aperto un'americana che si chiama Caroline Weaver, è un locale per maniaci, scrive Sasha Carnevali sulla Domenica del Sole 24 Ore, dei lapis, e tra i suoi clienti c'è la temutissima correttrice di bozze del New Yorker, perché sapete che il New Yorker, come molte altre riviste americane, a queste persone che si dedicano solo ed esclusivamente a correggere le bozze per evitare, per ridurre al minimo possibile i refusi, non soltanto i refusi ortografici, ma anche magari problemi di date o di, come ho avuto io questa settimana, di date o di nomi di personaggi che magari il nostro cervello ci fa dei brutti scherzi e ce li fa scrivere o ricordare non esattamente come sono. Didi Repubblica, a proposito di donne, ha un numero praticamente monografico sull'arte e le donne. Lo spunto è fare il profilo di Christine Massel, che sarà il direttore della Biennale d'Arte del 2017, perché sapete che quest'anno c'è l'architettura, si alternano le biennali, però c'è proprio questo speciale dedicato a galleriste, pittrici, curatrici, tutte un po' visionarie, il mondo libero delle donne nell'arte, perché il mondo dell'arte, sicuramente come tantissimi altri mondi, è ancora adesso dominato dagli uomini, però le donne si stanno facendo sempre più strada. Vi segnalo anche Argos, che è il mensile dedicato agli animali, il numero di agosto e settembre. Purtroppo questa settimana ci sono stati tanti episodi di cronaca, quello forse più impressionante, quello dei due dogo argentini che in Sicilia hanno ucciso un bambino di 1 anno e mezzo, che era il figlio della loro padrona, diciamo così. E si è ricominciato a parlare di avere delle regole migliori o addirittura un patentino per chi sceglie queste razze, che magari non sono aggressive o comunque non nascono aggressivi, glielo insegniamo noi umani a essere aggressivi, però sono di fatto potentissimi, quindi se mordono qualcosa è potenzialmente letale il loro morso. E la copertina di Argos è dedicato a Rottweiler, che secondo me è uno dei cani più belli che esistano, che viene definito dolcemente possente. E all'interno trovate i consigli per educarlo bene, ma si prende spunto dal Rottweiler, ma naturalmente questo vale anche per tutti, per gli altri molossoidi e per gli altri cani che hanno questo tipo di caratteristiche di forza e di forza soprattutto nelle mandibole. Vi segnalo anche la copertina del Time della settimana precedente, che invece, abbiamo visto l'articolo su Internazionale sul Venezuela, era dedicata proprio al Venezuela. Venezuela is dying, the slow motion collapse of a country. Questo è il titolo della copertina. Venezuela sta morendo, un collasso in al rallentatore di un paese. Slow motion anche forse nel senso che, come vi dicevo, è una crisi che sfugge praticamente ai radar dei giornali internazionali. Vi segnalo ultimissima segnalazione anche da Airone di questo mese, un articolo che poi è stato ripreso anche da vari altri giornali, ma qui forse nella sua forma più lunga, con uno studio di alcuni matematici che si sono applicati per spiegare perché si formano le code in autostrada e quali potrebbero essere i metodi per noi utenti di guidatori, ma anche per chi invece programma il sistema dei caselli o un po' come, se volete, naturalmente non è esattamente la stessa cosa, però facendo lo stesso sforzo organizzativo ma anche matematico che fanno i supermercati per trovare il modo migliore per minimizzare le code alle casse. Era purtroppo l'ultima segnalazione, ma solo per una questione di tempi, perché avevo messo da parte anche tante altre cose. Buon sabato, buona domenica da Giulia Crivelli, perché domani non ci sentiamo, ci risentiamo invece lunedì mattina alle 7:15 per la rassegna stampa dei quotidiani italiani.